Appoggiamo le armi. Comunque il broker la conferenza stampa sembra un carro armato girato. Sì, perché poi c'è un altro tipo. Sembra come la Russia che ha impostato. C'era una batteria nucleare attaccata. No, ha detto che posso prendere io, se inizi io la registrazione. Se sta per tornare lo aspetto, no? Se no. Io lo avvio così, registro tutto. Allora. Dell'utilizzo della teoria dei grafi e della rappresentazione matriciale dei dati, quindi le matrici dei dati. Questo è un tema cruciale perché quando avremo in maniera particolare completato la parte relativa alle matrici, allora potremo anche avere idea di come inserire e sistematizzare i dati. Okay? Primo passo riguarda la rappresentazione grafica dei dati relazionali. Allora abbiamo visto come raccogliere e sistematizzare i dati. Adesso dobbiamo capire, una volta prese le decisioni su che tipo di legami studiare, quali strumenti utilizzare, che tipo di vincoli pone la raccolta dei dati in base alle nostre necessità. Ricordate l'argomento che abbiamo concluso lo scorso venerdì, dobbiamo capire come, che cosa farcene di questi dati, come li rappresentiamo e quindi come li analizziamo. Ci sono sostanzialmente tre modi per studiare e analizzare i dati. Il primo è utilizzando il disegno, quindi la forma visuale, sostanzialmente usando i sociogrammi che abbiamo visto essere stati introdotti sostanzialmente da Moreno. La seconda modalità è invece in forma di grafo. Disegniamo ugualmente, possiamo ugualmente disegnare i nostri nodi, le nostre linee, ma se utilizziamo il concetto di grafo vuol dire che ci stiamo avvalendo delle notazioni e dei concetti, buongiorno, della teoria matematica dei grafi, la quale esiste a prescindere dalla network analysis e dalla quale però la network analysis trae modelli analitici, misure, concetti che poi utilizza per l'analisi della realtà sociale. La terza modalità per esprimere i dati relativi ai reticoli sociali è l'utilizzo delle matrici dei dati, ed è questa terza sostanzialmente poi la lingua che parlano i software che vi consentono di fare analisi delle relazioni sociali. Stiamo parlando dei modi che possiamo utilizzare per esprimere i dati relazionali che abbiamo imparato a raccogliere, a sistematizzare, però come poi li esprimiamo per analizzare. Allora c'è la rappresentazione visuale, utilizzando cioè i sociogrammi e il commento poi dei disegni sostanzialmente, l'utilizzo dei grafi, quindi della teoria matematica dei grafi, e la forma matriciale sociometrica, la quale non è che sostituisca la teoria dei grafi, cioè noi utilizziamo ugualmente la teoria dei grafi, ma non passiamo mai attraverso il disegno delle reti. Okay? Il disegno può essere utile, è molto evocativo, però il commento dei dati, come adesso vedremo, andrebbe fatto sui numeri e non sui disegni. Si possono utilizzare i disegni per accompagnare il commento dei dati, ma i disegni dovranno semplicemente rendere più evidente al lettore meno esperto, non specialista, come noi che li stiamo analizzando questi dati, ciò che noi abbiamo trovato guardando i numeri. Prego, si immagini. Stiamo parlando del come rappresentare i dati relativi alle reti. Tre modalità. Approfitto di dover chiudere questa finestra per un gesto di cortesia che voi mi consentirete nei confronti del vostro collega. Le modalità sono tre, sostanzialmente, utilizzando la forma visuale, cioè i sociogrammi, i disegni, la teoria matematica dei grafi come seconda modalità e terza, la rappresentazione attraverso matrici. Okay. Vediamo la prima. Se utilizziamo soltanto dei disegni, allora parliamo sostanzialmente della... ci riferiamo in modo particolare alle rappresentazioni proposte da Jacopo Moreno, il quale riponeva grande fiducia nelle potenzialità analitiche dei sociogrammi, cioè mappe di relazioni disegnate nello spazio bidirezionale, nodi, linee orientate, eccetera. Che cosa ci consentono di trovare i disegni sostanzialmente? Ci consentono di identificare, rispetto ai dati che abbiamo raccolto, i leader, i soggetti più centrali e i soggetti marginali, quelli che sono isolati o quasi isolati all'interno del network, ed eventualmente anche di identificare dei raggruppamenti, se ci sono dei sottogruppi, delle aree di maggiore connettività. Tuttavia, le rappresentazioni unicamente visuali risentono di due forti limiti. Il primo è collegato al fatto che diventano ingestibili quando cresce il numero dei nodi. Dovete tenere presente che quando cresce il numero dei nodi, la quantità potenziale dei legami tra di essi cresce in misura più che proporzionale e la complessità è condizionata non soltanto alla quantità dei nodi, ma in modo particolare alla quantità delle linee che potete trovare, cioè dei legami tra di essi. La seconda ragione consiste nel fatto che ci possono essere modi diversi di disegnare reti che sono perfettamente isomorfe, cioè identiche dal punto di vista strutturale. Un certo tipo di rappresentazione può mettere in risalto alcuni aspetti, un altro a parità di condizioni, cioè a parità di morfologia della rete, e trovate degli esempi molto chiarificatori da questo punto di vista nel vostro manuale, altri modi di rappresentare quelle stesse reti possono oscurare la presenza di sottogruppi. D'accordo? Allora, per evitare che il ricercatore sia accusato di noncuranza, trascuratezza o addirittura di malafede, conviene sempre fare un commento puntuale e preciso dei dati numerici, al limite accompagnandoli con i disegni. E veniamo allora alla seconda strategia, che riguarda l'utilizzo della teoria dei grafi. Perché la teoria dei grafi è importante? Qui vedete, come al solito io riporto nelle slide i capitoli di riferimento per gli argomenti di cui stiamo parlando adesso. Il capitolo quinto per le rappresentazioni visuali, il capitolo sesto per la teoria dei grafi, un capitolo molto complesso nel quale vengono presentati tutti i tipi di grafi potenzialmente costruibili a partire dai nostri dati. E per ciascuno di questi grafi noi adesso vedremo, dopo aver introdotto in senso generale la necessità, le ragioni che ci spingono a utilizzare la teoria dei grafi, quali sono alcune misure di connettività che dobbiamo utilizzare, le presenteremo in maniera analitica, e come esse cambiano quando si transita da un tipo di grafo ad un altro, come la stessa misura cambia nella costruzione e anche in parte nel significato che ha. Un grafo è costituito da un insieme di linee e da un insieme di punti uniti tra di loro da linee. La sua rappresentazione prescinde da qualsiasi regola spaziale di tipo euclideo. Questo è molto importante. Se io qui sotto disegno uno spazio, questi possono essere le assi cartesiane, e disegno due linee, 1 e 2. Sullo spazio cartesiano queste linee sono uguali o sono diverse? Sono diverse. Sono diverse. Sotto c'è uno spazio, d'accordo? Nell'analisi di rete, nella rappresentazione grafica dei dati, sotto, ad esempio, non c'è nessuno spazio. Queste due linee, se sono lo stesso legame, sono uguali. Ok? Il legame in questo caso c'è o non c'è? Quindi il grafo non vincola rispetto all'uso dello spazio, è come se sotto non ci fosse lo spazio, la rappresentazione prescinde da qualsiasi regola spaziale di tipo euclideo. Perché è utile la teoria dei grafi? La teoria dei grafi è utile per diverse ragioni. La prima è che mette a disposizione del ricercatore un lessico preciso che consente di rappresentare, costituire dal punto di vista semantico concetti utili, che sono utili in modo particolare per studiare le caratteristiche delle reti sociali. Vi ripeto che si tratta di un accostamento fatto ex post dall'analisi di rete, quello tra teoria dei grafi e analisi delle reti. Quindi un lessico preciso, riconoscibile, la possibilità di ottenere delle misurazioni oggettive delle caratteristiche strutturali, quello che non possiamo fare con i disegni, con l'uso esclusivo dei disegni, e le misure che adesso vedremo sono quelle che trovate dentro la maggior parte dei software. Ne abbiamo visto uno che poi trovate presentato anche nel manuale, nell'appendice, che peraltro non va studiata, che è USINET, potete scaricare, c'è un periodo freeware, credo di, lei l'aveva scaricato 2 mesi, qualcosa del genere, in cui è gratuito il programma. Questo programma ha un applicativo che si chiama NetDraw. Se utilizzate USINET, dentro c'è già NetDraw. Credo che adesso ci sia la versione 6 di USINET. Dentro questo programma c'è un programma che fa per trasformare subito i dati dalle matrici in grafi, si chiama NetDraw. Dopo un periodo di prova, però il site si deve comprare, ecco, ma rispetto ai programmi di analisi statistica non è che abbia dei costi, adesso io non ricordo, però forse ce ne sono anche di... sì, c'è. Conoscete R? R è un programma freeware molto potente di analisi statistica dei dati, e R ha dentro delle applicazioni che permettono di fare network analysis. Ecco, questo è la via freeware, completamente una di quelle, probabilmente non so se ne siamo altre per analisi. Comunque, NetDraw come programma di visualizzazione si può invece scaricare freeware. Quindi se non avete USINET potete scaricare quello che è gratis e però vi permette di fare disegni, okay? Di disegnare le reti. Allora, dentro questi programmi R, USINET, Structure, cioè i vari programmi che esistono per l'analisi di rete, trovate le misure, buona parte delle misure che adesso vedremo, e altre non ne vedremo solo alcune. La teoria dei grafi si presta ad essere considerata, oltre che un linguaggio convenzionale, un insieme logicamente integrato di modelli teorici deduttivi utilizzabili per l'analisi di fenomeni concreti. Questo aspetto è molto importante, Perché dentro le misure noi troviamo la rappresentazione di un meccanismo relazionale. Per questo è utile il calcolo dei grafi. Quando calcolo una misura, nella strategia che mi porta a produrre questo calcolo, io inserisco dentro un possibile o potenziale meccanismo relazionale. Quindi quando ottengo la misura la posso spiegare, perché il meccanismo è dentro la misura. Ok? È per questo che è particolarmente utile. Utilizzando una misura posso comprendere il meccanismo che produce un fenomeno sociale, che in qualche modo lo modella. In questo senso si parla di modelli teorici deduttivi utili, utilizzabili per l'analisi di fenomeni concreti, quando si fa riferimento alla teoria dei grafi. Sì, ecco, all'interno del testo mi pare che ci sia anche, c'è Crackplot, Resolu, GradUp, altri programmi, ne trovate presentati un po' per l'analisi delle reti sociali. Questi sono i tipi di grafi complessivamente considerati: i grafi semplici, i grafi diretti, i grafi segnati, i grafi pesati, i grafi multipli, gli ipergrafi. Se escludiamo da questo elenco gli ipergrafi, non ho fatto una cosa molto saggia. Poniamo che non ci sia scritto per grafi qua, consideriamo soltanto i primi 5. Vi viene in mente qualcosa che abbiamo già visto? Che cosa? Le tipologie dei legami. Le caratteristiche dei legami. Ottimo, le caratteristiche di base dei legami. La prima caratteristica qual era? Non la semplicità. C'è o non c'è, cioè la presenza o assenza, ok? I grafi semplici sono i grafi all'interno dei quali i legami possono esserci o no, quindi non hanno nessuna direzione, non hanno nessun segno, non hanno nessuna caratteristica aggiuntiva, ma semplicemente ci sono o non ci sono. Se noi costruiamo un grafo con questi legami, abbiamo costruito un grafo semplice che ha tutta una serie di misure, di caratteristiche strutturali. I grafi diretti prevedono legami che hanno la direzione. I grafi segnati, legami che hanno il segno, positivo, negativo. I grafi pesati, i legami che hanno il peso. Facciamo un esempio di peso di un legame. Frequenza. La frequenza di attivazione. Benissimo, questo è un esempio di peso del legame. Oppure l'elezione. Misurato su una qualche scala. La molteplicità che cos'è invece? Grafi multipli. L'insieme dei legami. La presenza di più legami contemporaneamente, esatto, l'insieme dei diversi legami. Gli ipergrafi sono un po' particolari, ma li vediamo più avanti. Partiamo dalla definizione degli elementi fondamentali dei grafi, in modo particolare quindi dei grafi semplici. Cominciamo a occuparci dei grafi semplici. Un grafo è costituito da due insiemi di oggetti. Il grafo semplice è costituito da un insieme di nodi, n, e un insieme di linee. N1, N2, eccetera, fino a LG, con G minuscolo identifichiamo il numero dei nodi, è per questo che qui troviamo G in vertice. Quindi se un grafo sarà composto da 5 nodi, l'insieme N dei nodi prevederà N1, N2, N3, N4 ed N5, cioè NG, e un insieme di linee, cioè le linee dalla linea 1 alla linea H, vedete il pettice, che definiscono complessivamente il nostro gruppo di soggetti. Quindi se io scrivo G 4 2 vuol dire che ho a che fare con un grafo semplice composto da 4 nodi e 2 linee. Non sto dicendo quali dei 4 nodi sono collegati tra di loro attraverso due legami, eh? Sto semplicemente dicendo che complessivamente il grafo è composto da 4 nodi e da 2 linee. Il grafo G maiuscolo è la composizione dell'insieme di nodi e dell'insieme di linee. Come vedete, avendo a che fare con questa teoria, iniziamo già ad avere la necessità di sistematizzare, mettere in ordine i nostri elementi. Questo chiaramente ci prepara all'analisi dei dati che dobbiamo svolgere. Okay? Per cui, se studiando il gruppo che state organizzando di persone che devono convivere assieme in emergenza per 2 mesi, avete a che fare con 20 persone e studiando un legame di sostegno avete identificato o di conoscenza pregressa, avete scoperto che complessivamente ci sono 5 legami di conoscenza tra queste persone, allora avete un grafo pari a 20 nodi e 5 legami, 20,5. Ok? Tutto chiaro? Ok. Il più semplice. Come? Dal nome è il semplice. Esatto. Facciamo sempre in tempo a complicarci le cose adesso. Allora, cominciamo a vedere alcune caratteristiche dei grafi semplici. Le linee sono semplici collegamenti di coppie di nodi. Non hanno nessuna caratteristica aggiuntiva. Proviamo a tenere vivo questo esempio. Avete di fronte a voi 20 persone che devono vivere assieme e con una semplice domanda chiedete a ciascuno di questi se conosceva già gli altri 19. Lo conosci già? Sì? No? Ok, quindi avete dei legami di conoscenza tra questi soggetti. I legami non hanno alcuna direzione, quindi vale l'eguaglianza LK, un qualsiasi legame K tra NI ed NJ sarà uguale al legame tra NJ ed NI. Ma qua sì. Sarebbe reciproco? Non è reciproco, sono esattamente la stessa cosa. Faccio un esempio. Proviamo a disegnare questa rete. Ok? G 4 2 N1 N2 N3 ed N4. Questo legame lo chiamiamo N1 e questo legame lo chiamiamo N2. Ok? G 4 2 4 nodi, 2 legami messi in questo modo. 4 nodi, N1, N2, N3, N4 e 2 legati, L1 ed L2. Questa eguaglianza, riportata qui in forma generale, può essere trasformata in forma particolare così. L1, il legame L1, è il legame tra N1, benissimo, e N3. Ed è diverso dal legame tra N3 ed N1, o è la stessa cosa? No, è la stessa cosa. È esattamente la stessa cosa. Tra N1 ed N3 non può esserci che un solo legame. Il legame può esserci o no, non ha nessun'altra caratteristica. Quindi, uguale, io faccio il modo per alzare un po'. Devo provare a vedere se riusciamo sempre a usare l'altra. Ci dovrebbe essere pensata. Dove? No, ci dovrebbe essere perché c'è il collegamento elettrico lì. Lì sopra dice. No. No, sulla cattedra. Lì sulla cattedra. Ah, sulla cattedra. Lì davanti, dove c'è la. C'è qualche pulsante lì? Se no non potresti rendere utile, vai là e tieni così, ti metti così. Non ho mica problemi, pensare. Chi è che ha fatto questa proposta? Lei? Ti do una mano. Vabbè, dai, c'è cioè, cioè, cioè, cioè, una volta. Rimembro alla pausa, alla pausa. Premevo no, no, quella non so. No, no, non era. Ah, lei no, il secondo piano c'è la tua logistica. No, ma su va, ti ricordi che su andava? Guardate, se come non c'era questo problema, durante la settimana. Non è che è presente quei pesi da 5 kg, solamente con braccio. Hai fatto palestra. Quindi guardate, senza problemi. N3. N1. È esattamente lo stesso legame. Il legame che esiste tra N1 ed N3 è la stessa cosa, è lo stesso legame, coincide con il legame che esiste tra N3 ed N1. È sempre questa linea. È per questa ragione che vale questa eguaglianza. Attenzione, perché il fatto che tra due legami, che tra due nodi ci possa essere solo un legame, poi avrà qualche effetto quando vedremo in che modo si può calcolare la quantità massima teorica di legami che si possono trovare dentro una rete. Perché questa grandezza è importante? Questa grandezza è importante se vogliamo misurare la densità di una rete, ok? Guardate, fra un po' ci arriviamo. La densità è appunto il rapporto tra la quantità dei legami che troviamo, in questo caso 2, e la quantità massima dei legami che potremmo trovare all'interno della rete, d'accordo? Per ogni coppia di nodi può passare un solo legame. Quindi non solo un legame non ha caratteristiche aggiuntive, no, non può essere diretto, non può essere segnato, eccetera, eccetera, ma può essere anche l'unico legame che passa dai nodi, perché altrimenti avremmo la possibilità di prevedere la molteplicità, cosa che non può essere nei grafi semplici. Vediamo alcune brevi definizioni che poi utilizzeremo correntemente. La definizione di adiacenza. Quando è che due nodi sono adiacenti? L'adiacenza quindi è una caratteristica del rapporto tra i nodi. Due nodi sono adiacenti se l'insieme delle linee del grafo di cui fanno parte contiene una linea che li unisce. Contiene il nodo Ni e Nj sono adiacenti se l'insieme delle linee del grafo contiene la linea Nk, Ni, Nj o Nj, Ni. D'accordo? Il grafo semplice. Sono adiacenti, cioè se sono connessi da una delle linee che costituiscono il grafo. N1 e N2 sono adiacenti? No. N1 e N4? Sì. N2 e N3 sono adiacenti? No. Siamo tutti d'accordo su questo? Ok? Bene. L'adiacenza riguarda i nodi, l'incidenza riguarda invece il rapporto tra i nodi e le linee. Una linea è incidente con un nodo e viceversa, cioè un nodo è incidente con una linea se tale nodo fa parte della coppia di nodi che definisce la linea. Con quali nodi è incidente la linea N1? Con N1 ed N3. Con quali linee è incidente il nodo N1? Con L1 ed L2. Quindi l'incidenza è, diciamo, semplificando, riguarda l'incrocio tra i nodi e le linee. E veniamo allora alla prima misura che vediamo. C'è adiacenza e incidenza se c'è una relazione. Sì, però diciamo che, senza dubbio, però l'adiacenza riguarda i nodi, sì. Un nodo adiacente con un nodo, l'incidenza... Ci deve essere il legame. Sì, scusi, se c'è un legame. Ok. Se no non c'è né adiacenza né incidenza. Sì, per esempio, però questo nodo è incidente, diciamo, ha un rapporto di incidenza con queste due linee, ma se noi guardiamo l'incidenza delle linee, di questa linea dobbiamo prendere in considerazione anche l'altro nodo. Ok? È la stessa cosa. Se lei si chiede con quali nodi è incidente questa linea, non è sufficiente prendere in considerazione questo nodo. No, con N1 e N4. Con N1 e N4, ok? Quindi è chiaro che parliamo sempre della stessa grandezza, è una sottile differenza tra le cose che si incrociano, d'accordo? Però è chiaramente parliamo sempre delle, se non c'è legame non c'è incidenza e non c'è adiacenza, no, su questo non ci piove, ok? Questa sottigliezza nella differenza serve, e ve la dico in maniera particolare, perché dopo vedremo due tipi di matrici diverse che si fondono su questa differenza, la matrice di adiacenza e la matrice di incidenza, le quali esistono, presentano dei valori solo se c'è un legame, non è che si cambi, la realtà non cambia, però danno delle informazioni diverse ed è bene tenerle in considerazione in maniera diversa. Il grado di un nodo, allora, è dato dal numero di linee incidenti con il nodo, e questa è la prima grandezza che noi prendiamo in considerazione. Nel caso del grafo semplice, chiaramente queste linee sono anche i legami incidenti, o se è l'unico legame che utilizzate per capire qual è la relazione, sono anche le relazioni, d'accordo? Però il grado di per sé è dato dal numero di linee incidenti con il nodo. Le faccio un esempio subito del perché si insiste su questa differenza. Se io le dico qual è il grado di questo nodo, che cosa mi risponde? 2, cioè ha due relazioni, ok? Relazioni con due soggetti diversi. E siamo in un grafo semplice. Il grafo non è più semplice, è un grafo multiplo. Ok? Se adesso vi chiedo qual è il grado di questo nodo? È 3. Anche se le relazioni sono 2, ma il grado è 3. Perché c'è un'altra linea incidente con il nodo, ok? È per questa ragione che introduciamo i concetti in questo modo, tenendoli ben separati dal punto di vista, perché dopo hanno un uso diverso, e quindi anche il software, quando calcolate il grado, se avete la molteplicità o sommate più legami, vi dà dei valori più alti rispetto al numero delle relazioni, cioè al numero degli alter, delle adiacenze che il nodo ha, d'accordo? Chiusa parentesi, il grado di un nodo allora è dato dal numero di linee incidenti con il nodo e si esprime con D, che sta per degree, di N, I. Proviamo a dire qual è il grado di questi nodi. Allora, il primo, ce l'ha già detto correttamente la vostra collega, il grado di N1 è 2. E il grado di N2 0. Il grado di N3 N3 1. Il grado di N4 1. C'è un range di variabilità per il grado? Lo possiamo inquadrare dal punto di vista teorico? Beh, sicuramente un nodo può essere un nodo isolato, come è il caso di N2, quindi il minimo è 0. E il massimo quale può essere in un grafo semplice? Il numero totale dei nodi. Tutti i nodi meno se stesso, ok? Un nodo può essere in collegamento con tutti gli altri nodi, ad eccezione di se stesso. Quindi se il numero complessivo dei nodi lo indichiamo con G minuscolo, e qual è il numero complessivo dei nodi? 4. Nella nostra, su questo esempio, 4. 1, 2, 3, 4. Il valore massimo che può raggiungere il grado, cioè quante linee può essere, o quanti nodi può essere il collegamento, è pari a G meno 1. Cioè a 3, 1, 2 e 3, ok? Non può esistere un grafo senza nodi, mentre può esistere un grafo senza legami. Se le persone che voi vi trovate di fronte vi dicono che non si conoscono, non si sono mai viste prima in quel momento, voi ce l'avete di fronte, non è che spariscano. Ma il grafo che voi, da buoni analisti strutturali, mentre le guardate, immaginate, è un grafo vuoto, un grafo con i nodi e senza le linee. Un grafo completo è invece stati attivati tutti i legami potenzialmente attivabili. Cioè, ogni nodo ha grado pari a G-1. E cioè direttamente collegato con tutti gli altri. Come si fa a trasformare questo grado e questo grafo in un grafo completo? Che cosa manca perché questo grafo diventa un grafo completo? Il collegamento N1 e N2. Il collegamento N1 e N2. Il collegamento N2 e N3, N4 e N3. Questo grafo adesso è un grafo completo, cioè un grafo all'interno del quale sono stati attivati tutti i legami potenzialmente attivabili, cioè in cui ogni nodo è adiacente a tutti gli altri ed ha un grado pari a G-1, cioè il numero dei nodi meno 1. Li abbiamo tutti 3. Se abbiamo identificato le caratteristiche del grafo completo, cioè tutti i nodi hanno un grado pari a G-1, allora possiamo anche determinare la quantità massima di legami potenzialmente attivabili. Cioè, nel caso in cui tutti i nodi siano direttamente collegati tra loro, cioè quando dovessimo trovare questa situazione, starà a significare che tutti i legami potenzialmente attivabili, la quantità massima di legami, max L, sarà stata ottenuta. Allora proviamo ad arrivarci così. Abbiamo detto che se ogni nodo è collegato a tutti gli altri, ciascun nodo ha grado pari a G-1, giusto? Quindi per determinare qual è la quantità massima, cioè questa grandezza qua, G-1, se questa quantità di legami io la registro per ogni nodo, sarà sufficiente per sapere quanti sono i legami potenzialmente attivabili che la moltiplichi per la quantità dei nodi che ci sono all'interno della rete. Se ogni nodo ha G-1 come grado e la quantità dei nodi è G, per sapere quanti sono i legami in tutto moltiplico G-1 per G, o no? G-1, 3, 3 legami devo avere meno 1, 3 legami devo avere meno 2, 3 legami devo avere meno 3 e 3 legami devo avere meno 4. G-1 legami più G-1 legami più G-1 legami più G-1 legami, giusto? G-1 per 4 è la quantità massima di legami potenzialmente attivati. Se applichiamo però questa moltiplicazione, cioè moltiplichiamo G per G-1, che cosa otteniamo nel nostro esempio? 4 per 3, cioè 12. Vi risulta che siano 12 poi legami? No, perché alcuni contiamo due volte. Li contiamo due volte perché se noi semplicemente moltiplichiamo G-1 per G, questo legame che considero ad esempio a partire da N1 lo considererò anche a partire da N3. Questo legame che considero a partire da N1 quando sommo i tre legami G-1 di N1 lo considererò anche sommando i tre legami di N4, cioè consideriamo ogni legame due volte. Siccome questo non può accadere perché un legame c'è solo ad una sola volta, ricordate LK, NI, NJ uguale NJ, NI, la grandezza che ottengo moltiplicando G per G-1 la dovrò dividere per 2 e quindi otterrò 12 qualità massima di legami che posso trovare dentro una rete composta da quattro nodi. Volevo chiedere qualcosa, lei? Forse sto andando avanti, però questa formula qua va bene quando tu devi contare la direzione, nel senso se è... Senza no. Andrà bene, andrà bene. Due senza direzione. Andrà bene. Ma se tu hai la direzione... Che non abbiamo, che non abbiamo adesso. Allora non devi più far tratto due, perché considerando che... La risposta che le posso dare io è che quando parleremo della direzione vedremo come va a finire questa storia. E naturalmente succederà quello che ha detto lei. Però adesso non abbiamo la direzione e quindi abbiamo un problema da risolvere, cioè quello di non contare due volte i legami. E naturalmente questa quantità va divisa per due. Ok? Facciamo un altro esempio con un grafo composto da tre nodi. Qual è la quantità massima di legami che può avere ciascuno di questi nodi? Due. Uno e due. Uno e due. E da quest'altra parte uno e due. Quindi la quantità massima di legami che posso trovare qua dentro chiaramente è 3. Uno, due e tre. Se applicassi la formula dovrei moltiplicare 3, che è il numero dei nodi, per 3 meno 1, cioè 3 per 2, 6, e dividere la grandezza per 2. E otterrei che la quantità massima di legami è 3. Secondo voi, anzi lo chiedo a lei che legge il futuro, questa formula a che cosa può servire? C'è un concetto del quale abbiamo parlato tante volte, l'abbiamo già introdotto a livello teorico e l'abbiamo presentato come una misura della coesione sociale dentro un gruppo. Cioè se qualcuno vi chiede questo gruppo sociale è coeso, in che misura è coeso? Voi potete utilizzare questa misura. Esprime il numero massimo di legami che ci può essere all'interno del gruppo. Ma questa non è una misura di coesione, il numero massimo di legami, perché se fosse una misura di coesione il numero massimo di legami potenzialmente attivabili, allora più un gruppo è grande più è coeso, basta far crescere. Allora, qual è la misura di coesione? Il numero di quelli effettivamente esistenti sul numero. È il rapporto tra il numero dei legami che noi troviamo e, giustamente, il numero dei legami potenzialmente attivabili all'interno. Più questo rapporto è elevato, più si avvicina al 100% o all'unità, più il gruppo sarà coeso socialmente. Per cui se voi avete un gruppo che appena prendete sotto le vostre cure ha una densità pari al 50% e dopo un mese è arrivata all'80%, vuol dire che la coesione sociale di quel gruppo è cresciuta. È un gruppo che è diventato più coeso, più integrato dal punto di vista sociale rispetto ai legami che state studiando. Per questo questa misura, nella sua efficacia e semplicità, serve a introdurre il tema della densità. Ma vediamo una cosa di cui avevo parlato prima parlando della rappresentazione visuale. Prima vi ho detto che al crescere del numero dei nodi, cioè si aggiungono al nostro gruppo 10 persone, no? Da un gruppo che ne contava 20 diventa un gruppo di 30, ecco, cresce in maniera più che proporzionale il numero potenziale dei legami. Questo è un esempio. G1, cioè la numerosità del primo gruppo, è pari a 5 unità e la quantità massima dei legami che posso trovare dentro questo gruppo è pari a 5 per 5 meno 1 diviso 2, cioè 10 legami. Se il numero dei nodi raddoppia e passa da 5 a 10, il numero massimo dei legami diventerà di 45 unità. Quindi per una crescita di G2 pari a 2 volte G1 avremo un incremento di 4 volte e mezzo rispetto al numero massimo dei legami. Questo dà un'idea di come l'aggiunta dei nodi all'interno di un gruppo non possa semplicemente essere letta come le unità di persone che aggiungo, ma come gli effetti che può produrre a livello relazionale siano potenzialmente molto complessi. Se raddoppia il numero dei nodi, nell'esempio, abbiamo una crescita di 4 volte e mezzo della quantità massima dei legami potenzialmente attivabili all'interno. Questo che cosa vuol dire? Trasferiamo a livello teorico il problema. Se il vostro gruppo raddoppia come unità, cresce più che proporzionalmente la complessità del rapporto. Questo senz'altro, ma se voi avete un gruppo che ha un livello di coesione sociale dell'80%, diciamo così, e raddoppia il numero dei nodi che lo costituiscono, cioè arrivano altri soggetti per raggiungere lo stesso livello di coesione sociale, non sarà sufficiente replicare presso di questi l'80% che avete avuto nei soggetti che avevate già sotto il vostro controllo? Non è sufficiente. Se voi avete un gruppo di 10 persone con una coesione sociale dell'80% e ne arrivano altre 10, per fare un gruppo di 20 complessivamente coeso all'80%, non sarà sufficiente che anche quei 20 siano tra di loro coesi all'80%, d'accordo? Cioè il lavoro che dovete fare non sarà semplicemente raddoppiare, rifare il lavoro che avete fatto prima, ma sarà più del doppio, più diciamo così complesso. Dovrete lavorare molto di più per renderlo coeso di quello che avete fatto rispetto al gruppo precedente. Questo vuol dire, in termini di intervento, la crescita quantitativa di un gruppo prevede una crescita in termini di necessità integrativa, se la vostra finalità è di renderlo coeso dal punto di vista sociale, che è più che proporzionale per il lavoro che dovete fare rispetto a quello che si è fatto con il gruppo prima che raddoppiasse. Ok? Questo vuol dire, se guardiamo la faccenda dal punto di vista dell'intervento. Ma veniamo alla formula tanto agognata della densità. Vedete che si esprime con un delta, che in genere è sempre una misura della differenza. Ed è data dal rapporto tra la quantità dei legami che effettivamente troviamo all'interno del gruppo e la quantità massima di legami potenzialmente attivabili all'interno del gruppo che troviamo. Ok? Naturalmente, una volta sistematizzati i dati sulle relazioni dentro un qualsiasi foglio di carta o di software, per analisi di rete anche no, diciamo analisi di rete, in un attimo calcolate la densità. Ma concettualmente è bene che sappiamo come funziona questa forma. Vedete, L, numero dei legami, diviso G per G-1 diviso 2, cioè max L, la formula per la quantità massima di legami che abbiamo visto prima. Per evitare, avrebbe detto il mio professore di matematica, di incastellamenti, si trasferisce il denominatore del denominatore al numeratore. Ok? Quindi diventa 2 volte L diviso G per G meno 1. Ok? Quindi proviamo a calcolare la densità del grafico che avevamo visto prima in esempio, cioè il grafo 4,2. A quanto è uguale la densità di questa rete? Il rapporto tra il numero dei legami effettivamente trovati qua dentro, quanti sono? 2, e la quantità massima di legami potenzialmente trovabili qua dentro. Cioè erano 6, cioè 4G per 4 meno 1, cioè 4 per 3, 12, diviso 2, cioè 6. La densità è pari a 1 per 3. Se preferite 0,3333333333. Ok? Naturalmente potete esprimere la densità come una frazione, come un numero con decimali, oppure sono percentuali, d'accordo? Questo si può esprimere anche così. In genere questa forma è più elegante, soprattutto se dovete riportare, è più comprensibile per le persone. d'accordo? Se riportate un dato standardizzato nella scala 0-1 è meno comprensibile al pubblico, se utilizzate la percentuale è un po' più comprensibile, quindi si può utilizzare naturalmente la forma percentuale. Quello che è interessante della misura di densità, ecco, per intenderci, per fare un esempio rispetto a quello che abbiamo detto prima, se questo gruppo di 4 raddoppia e diventano 8, voi ci avete messo magari 2 mesi perché questi 4 si odiavano, diciamo così. Cioè avete dato tutto il vostro sangue, il vostro impegno perché nascessero questi 2 legami, ve ne arrivano altri 4 da gestire, ok? Per arrivare al livello di coesione sociale, per un 3%, uno pensa, beh, faccio la stessa cosa tra loro, creo 2 legami anche là. Proviamo a vedere che cosa succede se raddoppia il numero dei legami. Quale sarà la densità di questo grafo adesso? Quanti sono i legami? 4. Complessivamente, però, il numero è 8 per G è pari a 8. Questo sono 8. Abbiamo aggiunto altre 4 persone, ok? Vuole che ne aggiungiamo qualcun altro? Possiamo anche fare per 3, eh? Basta il doppio. Allora, 8 per 7. Quanto fa 8 per 7? 56. Quanto? 56 diviso 2. 28. 4 ventottesimi, cioè 2 quattordicesimi, un settimo. Un settimo. Quanto è un settimo in decimale? Lo potete calcolare? C'è la calcolatrice. Si immagina che non c'è la calcolatrice. No, adesso verrà fuori una cosa di quelle intercettate dalla NASA. È una calcolatrice, no, è scientifica ovviamente. Sì, certo. Ecco. Era richiesto per questa divisione. Ci dica. 0,143, cioè una densità che è passata dal 33,33% al 14,3%. Cioè, se fate la stessa cosa, avete ottenuto una densità che è meno della metà rispetto a quella che avevate nel grafo precedente. Per cui, se gestite, non so, un servizio, una tenda, una casa di accoglienza, eccetera, con 5 persone, vi dicono, ma ne prenderesti un'altra 5 e avete in mente la coesione sociale, magari è stato difficoltoso, anche no, nel senso che dovete capire bene, perché se lo scopo è di ottenere una certa coesione sociale, con lo stesso lavoro ottenete una coesione complessivamente meno della metà rispetto a quella che avete ottenuto in precedenza, d'accordo? Interessante questo aspetto applicativo, io stesso non ci avevo mai pensato con... sì, perché è raro che mi metta dal punto di vista del costruttore di legami, in genere mi studio, d'accordo, ma non faccio, come dire, costruzione di legami sociali, no? È un lavoro da educatore, da operatore, da... Buongiorno. La densità varia per questo motivo, è arrivato giusto in tempo per la pausa, eh? Ma adesso è superiore. Perché lei è coordinato. La densità varia sempre tra 0, grafo vuoto naturalmente, quando è che vale 0, quando la quantità dei legami che trovate è pari a 0, e 1. Il grafo completo, la densità può essere anche interpretata come la probabilità che in un grafo due nodi estratti a caso siano tra di loro adiacenti, cioè siano collegati. No. Questo serve più. Ecco, vorrei adesso, se volete possiamo anche andare dritti, fino alle 3:30. Ditemi voi. Io comunque fa, non ce la faccio più. Sì. E c'ho 5 minuti. Allora forse è il caso di fermarci così lei fa meno di sedersi. Ma se no si può accomodare naturalmente. Così dopo partiamo da, perché abbiamo il tema dei sottotitoli. Allora ci fermiamo 5 minuti, ok?